Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. Passammo tristemente il tempo che ci separava dalle 11, ora dell'inizio del processo, poiché mio padre e gli altri membri della famiglia avevano l'obbligo di testimoniare e li accompagnai al tribunale. Durante lo svolgimento di quella miseranda farsa di giustizia, soffersi tutte le pene dell'inferno. Si doveva decidere se il risultato della mia illecita curiosità e delle mie fatiche sarebbe stato la morte di due esseri umani. Quella di un bimbo sorridente, pieno di gioia e di innocenza, e quella di un'altra persona, assassinata in maniera ancora più tremenda, con l'aggravante di infamia per un delitto che sarebbe stato memorabile per orrore. Anche Justine era una fanciulla di molte qualità e possedeva doti che le promettevano una vita felice. Ora tutto doveva scomparire in una tomba ignominiosa, e la colpa era mia. Avrei preferito mille volte accusare me del delitto attribuito a Justine. Ma ero assente quando il crimine era stato commesso, e una simile dichiarazione sarebbe stata considerata come il vaneggiamento di un pazzo, senza giovare alla discolpa di colei che soffriva per causa mia. Quando comparve, Justine era calma, vestiva a lutto e il suo viso, sempre attraente, era reso squisitamente bello dalla solennità dei suoi sentimenti. Sembrava fiduciosa nella propria innocenza e non tremava, anche se migliaia di persone le rivolgevano sguardi di odio e di esecrazione, perché tutta la simpatia che in altre occasioni la sua beltà avrebbe potuto provocare era cancellata nell'animo degli spettatori dal pensiero dell'enormità che le veniva attribuita. Era tranquilla, ma la sua tranquillità era evidentemente forzata, e poiché la sua confusione era stata addotta come prova della sua colpevolezza, si sforzava di fare mostra di coraggio. Quando entrò in aula, volse lo sguardo attorno e subito scoprì dove eravamo seduti, e quando ci vide, parve che una lacrima le velasse gli occhi, ma si riprese subito e un'espressione di dolente affetto sembrò attestare la sua completa innocenza. Ebbe inizio il processo, e dopo che il pubblico ministero ebbe formulato l'accusa, vennero chiamati alcuni testimoni. Contro di lei congiuravano molte strane circostanze che avrebbero potuto rendere incerto chiunque, a differenza di me, non avesse avuto prove irrefutabili della sua innocenza. Era rimasta assente da casa tutta la notte in cui il delitto era stato commesso, e verso il mattino era stata vista da una donna del mercato non lontano dal luogo in cui era stato trovato il corpo del bambino assassinato. La donna le aveva chiesto che cosa facesse, ma ella, con espressione strana, si era limitata a rispondere in maniera confusa e inintelligibile. Era tornata a casa verso le 8 del mattino, e quando le avevano domandato dove avesse passato la notte, aveva detto di essere stata in cerca del bambino, e aveva chiesto con ansia se si sapeva qualcosa di lui. Quando le avevano mostrato il cadavere, era stata presa da un violento attacco isterico, e aveva dovuto restare a letto per diversi giorni. Si produsse allora la miniatura che il domestico le aveva trovato in tasca, e quando Elizabeth, con voce esitante, riconobbe che si trattava della stessa miniatura che aveva appeso al collo del bimbo un'ora prima che egli si smarrisse, un mormorio di orrore e di indignazione corse per l'aula. Justine venne invitata a difendersi. Nel corso del processo la sua espressione era mutata. Sul suo volto si leggevano chiaramente sorpresa, orrore e angoscia. Più volte era stata sul punto di piangere, ma quando venne chiamata a deporre, raccolse tutte le sue forze e parlò con voce chiara, anche se tremante. «Dio sa», disse, «che sono del tutto innocente, ma non pretendo che le mie proteste valgano a farmi assolvere. La mia innocenza apparirà dall'esposizione chiara e semplice dei fatti che vengono addotti a mio carico, e spero che il carattere da me sempre mostrato possa indurre i giudici a una favorevole interpretazione, laddove qualche circostanza appaia dubbia o sospetta. Poi raccontò che con il permesso di Elisabeth aveva passato la sera della notte in cui era stato commesso il delitto a casa di una zia a Shen, un villaggio a circa 5 chilometri da Ginevra. Mentre tornava, verso le 9, aveva incontrato un uomo il quale le aveva chiesto se sapeva qualcosa del bimbo che si era smarrito. Allarmata da quella notizia, l'aveva cercato a lungo. Poi le porte di Ginevra si erano chiuse ed era stata costretta a restare per diverse ore della notte nel fienile di una casetta per non disturbare i proprietari che la conoscevano bene. Aveva trascorso la maggior parte della notte sveglia. Forse si era assopita per qualche minuto verso mattina. Dei passi l'avevano disturbata e si era svegliata. Era l'alba e aveva lasciato quel rifugio per rimettersi alla ricerca di mio fratello. Non sapeva se si era avvicinata al luogo dove giaceva il suo cadavere. Non era cosa sorprendente che fosse apparsa sconvolta quando era stata interrogata dalla donna del mercato. Aveva passato una notte insonne e il destino del povero William era ancora incerto. Per quello che riguardava la miniatura, non poteva fornire spiegazione alcuna. «So», continuò l'infelice vittima, «quanto questa circostanza gravi fatalmente contro di me, ma non sono in grado di spiegarla, e dopo aver espresso la mia completa ignoranza in proposito, non mi resta che fare delle supposizioni sul fatto che sia stata messa nella mia tasca. Ma anche su questo punto sono sotto scacco. Io credo di non avere nemici al mondo, e nessuno certo potrebbe essere così malvagio da distruggermi per un semplice capriccio. È stato l'assassino a metterla là? Non so come potrebbe avere avuto modo di farlo, e se anche gliene avessi data l'occasione, perché mai avrebbe rubato il gioiello per disfarsene così presto? Affido la mia causa al senso di giustizia dei miei giudici, anche se vedo che non c'è luogo alla speranza. Prego che si interroghino alcuni testimoni sul mio carattere. Se le loro parole non avranno maggiore peso della mia supposta colpevolezza, dovrò essere condannata, anche se affido la mia innocenza, la mia salvezza. Furono chiamati alcuni testimoni che la conoscevano da molti anni e tutti parlarono bene di lei, ma la paura e l'orrore per il delitto di cui la ritenevano colpevole li resero timorosi e poco propensi a farsi avanti. Quando Elisabeth vide anche l'ultima risorsa, il suo eccellente carattere e la sua condotta irreprensibile venire meno all'accusata, sebbene in preda alla più viva agitazione, chiese il permesso di rivolgersi alla corte. «Sono», disse, «la cugina dell'infelice fanciullo che è stato assassinato, o meglio sua sorella, perché sono stata educata dai suoi genitori, e già molto tempo prima della sua nascita vivevo con loro. Potrebbe quindi apparire indegno che io mi faccia avanti in una simile occasione? Ma quando vedo un essere umano sul punto di soccombere per la vigliaccheria dei suoi presunti amici, chiedo mi sia permesso di parlare, perché possa dire quello che so del suo carattere. Conosco molto bene l'accusata. Ho vissuto con lei nella stessa casa prima per un periodo di 5 anni e poi per un altro di quasi 2. Per tutto questo tempo ella mi è apparsa la più gentile e la più amabile delle creature di questo mondo. Durante l'ultima malattia di mia zia, Madame Frankenstein, le ha dedicato le cure più affettuose e attente. Poi ha assistito la madre nel corso di una penosa malattia in una maniera che ha destato l'ammirazione di tutti coloro che la conoscevano. In seguito è tornata a vivere in casa di mio zio, dove tutti le volevano bene. Era molto affezionata al bimbo che è morto, e si comportava con lui come la madre più affettuosa. Per parte mia, non esito ad affermare che, malgrado tutte le prove prodotte contro di lei, la credo con assoluta certezza del tutto innocente. Non aveva alcun motivo di compiere una simile azione, e quanto all'oggetto che rappresenta la prova più schiacciante, glielo avrei dato volentieri, se davvero lo avesse desiderato, tanta è la stima e la considerazione che ho per lei. Mormorio di approvazione seguì il semplice e appassionato appello di Elizabeth, ma si riferiva a quel generoso intervento e non era in favore della povera Justine, verso la quale l'indignazione del pubblico si rivolse con raddoppiata violenza, accusandola dell'ingratitudine più nera. Lei stessa piangeva mentre Elizabeth parlava, ma non rispose. Terribili furono la mia agitazione e la mia angoscia durante tutto il processo. Credevo nella sua innocenza, ne ero certo. Forse nel suo gioco infernale, il demone che aveva assassinato mio fratello, e non ne dubitavo neppure per un attimo, poteva anche avere condannato quell'innocente alla morte e all'ignominia. Non potevo reggere all'orrore della mia situazione, e quando mi accorsi che la voce popolare e il contegno dei giudici avevano già condannato la mia innocente vittima, mi precipitai fuori dell'aula, in preda dell'angoscia. Le torture dell'accusata non eguagliavano le mie. Lei era sorretta dalla propria innocenza, mentre a me gli artigli del rimorso straziavano il petto e non avrebbero lasciato la presa. Passai una notte di angoscia ininterrotta. Al mattino andai al tribunale, avevo le labbra e la gola a riarse e non osai porre la fatale domanda, ma ero conosciuto. E l'ufficiale indovinò il motivo della mia visita. I dadi erano già stati gettati. Erano tutti neri, e la povera Justine era condannata. Non posso nemmeno tentare di descrivere quello che provai. Avevo già sperimentato sensazioni d'orrore che mi sono sforzato di spiegare con espressioni più adeguate, ma le parole non possono dare un'idea della straziante disperazione che mi sconvolse allora. La persona a cui mi ero rivolto aggiunse che Justine aveva già confessato la sua colpa. Questa prova, osservò, non era necessaria in un caso così lampante, ma ne sono egualmente lieto. A nessuno dei nostri giudici piace condannare un criminale su prove circostanziali, per quanto evidenti possano essere. Questa era una notizia strana e inattesa. Che poteva significare? I miei occhi si erano forse ingannati. Ero veramente pazzo, come mi avrebbe ritenuto il mondo se avessi svelato l'oggetto dei miei sospetti. Mi affrettai a tornare a casa ed Elizabeth mi chiese ansiosamente il verdetto. Cugina mia, risposi, la decisione è stata quale te la potevi aspettare. Tutti i giudici preferiscono che 10 innocenti soffrano piuttosto che un solo colpevole sfugga. Ma ha confessato. Fu un colpo crudele per la povera Elizabeth, che aveva creduto fermamente nell'innocenza di Justine. Come potrò credere ancora alla bontà umana? Disse, Justine, che io amavo e stimavo come una sorella, avrebbe mostrato quei sorrisi di innocenza solo per tradire. I suoi occhi, buoni, sembravano incapaci di astio e finzione. Eppure ha commesso un delitto. Poco dopo ci riferirono che l'infelice vittima aveva espresso il desiderio di vedere mia cugina. Mio padre avrebbe preferito che non andasse, ma disse che lasciava ogni decisione al suo giudizio e ai suoi sentimenti. «Sì», disse Elizabeth. «Andrò, anche se è colpevole, e tu, Victor, mi accompagnerai. Non posso andare sola. L'idea di quella visita era una tortura per me, ma non potevo rifiutare». Entrammo nella tetra cella e in fondo scorgemmo Justine seduta su un poco di paglia. Aveva le mani strette dai ceppi e teneva la testa reclinata sulle ginocchia. Quando ci vide entrare si alzò e quando fummo soli con lei si gettò ai piedi di Elizabeth piangendo amaramente. Anche mia cugina piangeva. «Justine», disse, «perché mi hai tolto la mia ultima consolazione? Credevo nella tua innocenza e già allora fossi molto infelice. Non ero disperata come adesso. Anche voi allora mi credete tanto, tanto cattiva. Anche voi vi unite ai miei nemici per schiacciarmi, per condannarmi come assassina». La sua voce fu soffocata dai singhiozzi. «Alzati, mia povera ragazza», disse Elizabeth. «Perché ti inginocchi, se sei innocente? Io non faccio parte dei tuoi nemici, ti ho creduto innocente, nonostante ogni prova, fino a quando non ho saputo che tu stessa ti eri dichiarata colpevole. Tu ora affermi che ciò è falso. E sta sicura, mia cara Justine, che nulla, se non la tua stessa confessione, può scuotere per un momento la mia fiducia in te». «Ho confessato, ma ho confessato una menzogna. Ho confessato per ottenere la soluzione, ma ora questa falsità mi pesa sul cuore più di tutti i miei peccati. Il Dio del cielo mi perdoni. Da quando sono stata condannata, il confessore non mi ha lasciato un attimo di tregua, mi ha tormentato e terrorizzato tanto che quasi ho incominciato a pensare di essere il mostro che egli diceva. Minacciava di scomunicarmi e condannarmi al fuoco dell'inferno se avessi continuato a negare. Cara signora, io non avevo nessuno che mi sostenesse, tutti mi guardavano come un mostro destinato all'ignominia e alla perdizione. Che cosa potevo fare? In un'ora di angoscia ho sottoscritto una menzogna e solo ora mi sento davvero infelice». Tacque per un istante, piangendo. Poi continuò: «Pensavo con orrore, mia dolce signora, che voi avreste giudicato la vostra Justine, che la vostra benedetta zia teneva in tanta considerazione, che voi stessa amavate. Una creatura capace di un delitto che solo il diavolo può aver potuto compiere. Caro William, caro, benedetto fanciullo. Presto ti rivedrò in cielo, dove tutti saremo felici, e ciò mi consola mentre mi accingo ad affrontare l'ignominia e la morte. Oh, Justine, perdonami di avere per un solo istante dubitato di te. Perché hai confessato? Ma non abbatterti, mia cara ragazza, non temere. Io proclamerò dovunque la tua innocenza e la dimostrerò. Scioglierò i cuori di pietra dei tuoi nemici con le mie lacrime e le mie preghiere. Non morirai. Tu, la mia compagna di giochi, la mia amica, mia sorella e più che sorella, morire sul patibolo, no, no! Non potrei sopravvivere a una così orribile sciagura». E l'indomani mattina Justine morì. L'eloquenza commovente di Elizabeth non riuscì a smuovere i giudici dalla loro ferma convinzione della colpevolezza di quella santa vittima. Anche i miei appelli appassionati e indignati caddero nel vuoto, e quando udii le loro fredde risposte e ne sentii i ragionamenti insensibili e rozzi, la confessione che mi ero ripromesso di rendere mi morì sulle labbra. Mi sarei proclamato pazzo, ma non sarei riuscito a fare revocare la sentenza a carico della mia disgraziata vittima. Ella morì sul patibolo come un'assassina. Mi distolsi dalle torture del mio cuore per osservare il profondo, muto dolore della mia Elizabeth. Anche questo era opera mia, e il dolore di mio padre, e la desolazione di quella casa un tempo così gioiosa, tutto era opera delle mie mani tre volte maledette. Piangete, infelici, ma non sono queste le vostre ultime lacrime. Leverete ancora lamenti funebri e il suono dei vostri gemiti si udrà più e più volte. Frankenstein, vostro figlio, congiunto, amato, amico di sempre, colui che darebbe ogni goccia del proprio sangue per voi, che non ha pensiero o gioia che non si rifletta anche sui vostri beneamati visi, che riempirebbe l'aria di benedizioni e trascorrerebbe la vita a servirvi, e lui che vi chiede di piangere, di versare lacrime senza fine, felice oltre ogni speranza, se in tal modo il destino inesorabile si riterrà soddisfatto e se la distruzione cesserà prima che la pace della tomba succeda ai vostri tristi tormenti. Così parlava la mia anima profetica, mentre lacerato dal rimorso, dall'orrore e dalla disperazione, guardavo coloro che amavo consumarsi in vano dolore sulle tombe di William e Justine, prime vittime sfortunate delle mie sacrileghe arti.